Ci siamo? Avete riconosciuta? Questa mi ricordava qualcosa. Qualcosina, sì. Questa era giusto la prima chicchina che useremo come sigla per questa nuova puntata, che era giusto una delle chicche, diciamo, più pregiate, ritrovate proprio per questa trasmissione. E allora, benvenute a tutti. Siamo DJ Prog 5 quarti e DJ Dalai Dama, come avrete riconosciuto le nostre fantastiche voci. Quelle gran sagome, direi. Quelle gran sagome, sì, quei buon temponi. E abbiamo messo insieme, diciamo, le nostre due teste, una dal rovescio della medaglia, la vecchia trasmissione ormai non quindi più. Quindi per mettere insieme queste due teste, ecco. Io vi immagino già i risultati che vi aspetteranno stasera, tenetevi forte e allacciatevi bene alla sedia e al divano dove siete, perché stasera ne sentiremo veramente delle belle. E grande ospite, nonché, diciamo, autore di questa trasmissione, di questo speciale estivo su Radio Wombat, Dalai Dama, che ha costruito un po' questa trasmissione estiva, che ora ci racconterà, ci spiegherà come funziona questa edizione speciale 100% vinile, vi ricordo, e soprattutto 100% 45 giri, o per chi vuole 7 pollici. Pollici, sì. Com'è nato tutto? Diciamo, è nato da una cosa, da una ricerca. Sai quando fai le grandi pulizie oppure ritrovi le cose per caso? Ecco, era a casa di un mio conoscente molto stretto, per usare un eufemismo, e essendo un DJ delle radio libere di Firenze, che iniziò tutto quando ancora era quando era nelle, era appena nata, quindi era ancora una radio libera, esattamente a Radio One nei, alla fine degli anni 60. E rimestando un po' in questa casa sono rivenute fuori queste proprio due sacche con dentro pieno di 45 a uso promozionale e a uso per il jukebox, che prima negli anni 70 e negli anni 80 le etichette discografiche mandavano per promozione alle radio per farli passare i loro dischi. Ma questi due sacchetti erano proprio stati dimenticati, diciamo che è stato veramente una sorpresa per tutti trovarle, ecco, anche perché finché non sono state aperte, non abbiamo guardato i centrini, non si sapeva di cosa ci eravamo ritrovati per le mani. E quindi, vedendo che proprio era uno spaccato di un'epoca, perché alla fine c'è anche qualche disco di 68 e di 74, però la maggior parte dei dischi sono del triennio 69, 70, 71 e 72. Quindi mi era sembrata un'idea carina, visto che ci sono anche cose abbastanza particolari, di fare un programma proprio per far sentire uno spaccato del periodo. Diciamo dell'estate, di tutte le estati, dal 68 al 72. Estate e non solo, sì. Direi. Però visto il clima qui dentro alla nostra regia... Qui dentro siamo quasi a petto, così per la cronaca... E le temperature, sì, possiamo dire che allora è un ritrovamento dell'estate, sì, 69, sì. 70, 71, 72. Oppure bisognava mettere musica caraibica, ma non ce la siamo sentita. No, ancora no. Purtroppo nelle buste musica caraibica purtroppo mancava. C'era una grandissima quantità di pop che in questa selezione, specialmente in quella di stasera, ho lasciato perdere, ho trovato qualche cosina di un po' più... Siamo un po' più rock. Un po' più aum. Però ecco, giusto per cominciare, per dirvi della sigla, l'avrete sicuramente riconosciuta, perché è quella che poi con, se non sono 40, con almeno 35 anni di distanza, è il pezzo che poi è stato usato come sigla di Futurama. E come si chiamano? Ci vuoi ricordare? Allora, esattamente sono Les Hyper Sound, si chiamano, perché sono francesi, mi sembra di capire da... Psyché Rock, si chiama il disco di Les Hyper Sound. E la curiosità è che questi Hyper Sound erano il gruppo, diciamo, di Pierre Henry, che non vi dirà niente, però è stato un grandissimo compositore, specialmente di musique concrète, della seconda metà degli anni 50, quindi musica anche accademica, colta, e questi Hyper Sound erano il gruppo, diciamo, pop, tra virgolette, di Pierre Henry, e sentite un po' che cosa vi aveva tirato fuori in questo pezzo, che mi sembra, se non mi sbaglio, sia del 68, ma infatti si sente in questo pezzo la musique concrète, le campane, sì. Un sacco di suoni presi appunto insieme, dal vero. Sì, insieme alla psichedelia di quegli anni. Era una, comunque si sente che è musica, diciamo, musica leggera, ma anche musica che ha qualcosa che prende da una musica classica, dalla musica classica, dalla musica contemporanea. Assolutamente, questa mi sembrava perfetta. In maniera divertita, anche, sì, sì. Anche e per infatti, un rimando io, ai giorni nostri. Io la rimetterei anche dopo, guarda. Dopo vi si ripiazza anche, sì, guarda. Sì. Però ora volevo andare un attimino avanti, e c'era quest'altra chicchina che magari non vi dirà niente, così, però secondo me appena partirà anche questa la riconoscerete, perché ha avuto un discreto successo, È un 45 dei The Foundations e il pezzo è Build Me Up Buttercup. No, magari non vi dirà niente così, ma aspettate un secondo che la facciamo partire e vi accorgerete subito di cosa sto parlando. Eccola. Enjoy. Questi erano i Foundations, forse avrete riconosciuto la canzone, veramente è stato un successone da classifica, infatti moltissimi di questi, anzi la grandissima parte di questi 45 erano tutte cose da classifica di quegli anni lì, però questa era veramente una chicchina, cioè... Forse non del sicuramente una chicchina che potrebbe essere quasi annoverata tra il North and Soul, direi. Si dovrebbe sentire un attimo Soul Time, se concorda con se questa. Sì, è molto rigido in genere l'autore di Soul Time. Andrebbe chiesto se ce la fa passare, via. Sì, ma secondo me. Ci poteva però stare. C'era del soul dentro a questo brano. Sicuramente, cioè, i Foundations erano fondamentalmente una band soul dei primi anni 60. Hanno avuto anche, non mi ricordo quante, però forse hanno avuto anche qualche numero uno nella classifica americana del soul. Ora si sono un po' persi col passare degli anni, però quei tempi hanno avuto anche abbastanza successo, ecco. Vi farei partirei con la prossima, magari un'altra chicchina. Che ci metti? Senti, io vi metterei Memo from Turner, data al solo Mick Jagger, che però era con le registrazioni era insieme a tutti i Rolling Stone. Sono delle registrazioni proprio di fine anni 60 che poi non finirono in nessun album ufficiale, però poi in una raccolta degli anni 80 già in CD furono pubblicati, ma questo era appunto il 45 originale, segnato proprio solo come Mick Jagger, che infatti fu, che non mi ricordo male, in Memo from Turner, la slide guitar era di Ryan Hooder, se Sì, non mi sbaglio. esatto. Esatto. E infatti ho ospitato appunto per questo pezzo degli Stones, c'era anche la slide guitar di Ryan Hooder, e quindi come non farvelo sentire? Ed ecco Memo from Turner allora. 1970. San Antone on a hot and dusty night. We were eating eggs in Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now. You fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. Well, you're a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. And you're the meth red gray executive I see heavily advertised. And you're the great gray man. Daughter licks policeman's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing. When the old men do the fighting and the young men all look on, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn. Be wary, please, my gentle friends, of all the skins you breathe. They haven't tasted habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are and keep your noses clean. boys will be boys. I'm playing with toys, so be strong with your bees. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer? So stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen, why you all work for me? Born on Bayou. Anzi no, questo era Memo from Turner, mi ero già portato avanti. Eri già avanti di un pezzo. Mamma mia, ero già avanti ragazzi, grande, ma grande. È l'ora dello stacchetto? Stacchetto. È l'ora o no? Mi sembrava di sì, ora ho l'orologio che va male o... Mi sembrava fosse l'ora, però... Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Cosa ascolti? Energy Walnut! Energy Walnut! Energy Walnut! Energy Walnut! Energy Walnut! Energy Walnut! Energy Walnut! No ragazzi, fantastici questi stacchetti. Questi stacchetti sono meravigliosi. Complimenti agli autori. Io non possiamo che fare tutti i nostri più sentiti ringraziamenti ai ragazzi di Fuoco alle Polveri che si sono inventati questi stacchetti. Magari li avrete anche sentiti nelle ultime puntate di Tonight Alive, perché ve li sto piazzando lì in mezzo all'improvviso. Se seguite le serate l'avrete sentiti sicuramente. Sono veramente fantastici, non si può fare a meno di non metterli, anche per ricordarvi dove siete sempre sintonizzati e per non farvelo dimenticare mai, giusto? Giustissimo, beh. Ma ora? Quindi andiamo avanti con la nostra selezione. E vorrei mettere un brano di un gruppo, diciamo, pompissimo, tra i più famosi che sono, direi, in scaletta. Gruppo proprio pompissimo. Che sono i Creedence Clearwater Revival. Classicone. Un 7 pollici qui davanti con copertina originale. 1970, se, mi sembra, non vorrei dirti una cosa per un'altra, ora la memoria mi falla. Gli anni sono quelli. E questo metterò due lati di questo disco. Le voglio mettere tutte e due. Sì, sì, lato A e lato B, perché secondo me valgono la pena assolutamente entrambi i lati. E li dedico. Posso fare una dedica? Sicuramente. Li dedico a Alessandra, Maurizio e Edo, che mi stanno ascoltando, forse. Grandi. Creedence Clearwater Revival. Ah, non ho detto i titoli dei brani. Sono il primo Born on the Bayou e il secondo è il classico Proud Mary. Proud Mary, che ricordiamo, fatti andare, cioè il successo di Proud Mary è stato... i primi sono stati Ike e Tina Turner, la versione più famosa di Proud Mary, ma l'hanno rifatta in modo egregio anche i Creedence, e l'ascolteremo a brevissimo. Enjoy. Eccoveli. Yeah. faremo sentire Proud Mary, che però classico. Appena il nostro Frog 15 fattoriale ci girerà il disco fisicamente, ci sentiremo la mitica Proud Mary nella versione dei Creedence Clearwater Revival. Poi vi sveliamo anche un segreto che non potete vedere. Non sveliamo i segreti. Non li sveliamo? Non li vuoi svelare? Ormai l'ho detto. Ormai, vabbè, via. Praticamente non abbiamo l'adattatore, il pispolino, quello che si mette sul giradischi, che serve per adattare i 45 giri, quelli con diciamo la, non il buchino, ma non è che non ci se l'ha, è che non lo troviamo. Non lo troviamo. C'era da qualche parte, non lo troviamo. Quindi bisogna piazzare perfettamente, fare tutta una serie di giochi col compasso e mettere il disco nella posizione. Meno male ci sa un occhio non indifferente, certo. Vero? Comunque è arrivato il momento di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. Wombat. Questi erano i Creedence Clearwater Revival. C'è stato qualche problema sul finale, che un po' l'ellittica ci ha remato contro. Ma il momento angolare è tremendo, eh. Ha sempre fregato un sacco, sì, di, sì, un sacco di fisici, quindi ci può stare, ci può stare. Ma che ci metti ora? Vedo quella. Io metterei proprio lui, sì. Che questo è un pezzo di un autore non molto conosciuto, anzi, abbastanza sconosciuto. Si tratta di J.J. Light, che in verità era il nome d'arte che si era dato il bassista navajo Jim Stallings. Infatti questo pezzo, Heya, è un pezzo del 1969 ed è un pezzo in realtà un canto proprio dei Navajo che poi appunto Jim Stallings, in questo caso J.J. Light, poi nel 1969 ha deciso di incidere e ha avuto anche un discreto successo, perché è entrato tra le prime posizioni del Billboard in America nel 1969, e quindi pur essendo una canzone, diciamo, anche sociale, perché appunto è un canto dei Navajo. Fortunatamente è riuscita a trovare anche spazio nella classifica delle vendite, e quindi perché non farvela ascoltare? E questa è Heya di JJ Light. Ora parte, eh? O non parte? Non parte, non so. Non sta partendo un disco fake? Eppure i Solchi ce l'ha. I Solchi un disco ce vergine. L'ha. Eppure i Solchi ce l'ha. Falla ripartire, vai. Facciamola ripartire, almeno si sentirà subito dall'inizio. È stato un piccolo problema. Eccola. Heya, JJ Light. Snake dance, hey, I, hey, I. Questo era JJ Light, si sentiva abbastanza che era un canto indiano, no? Però bellino rifatto. Sì, con la musica, diciamo, tra il rock blues. Sì, con questo arrangiamento blueseggiante. Un po' dai. Bellino ci stava proprio bene, sì. E ora direi che il prossimo potrebbe essere, lo vedo qui proprio giusto sotto mano, e perché non mettere proprio Jim Croce? Jim Croce magari anche lui ai più dirà poco, ma ha avuto molto successo all'inizio degli anni 70, era fondamentalmente suonava folk rock, ma anche blues rock, chitarrista molto dotato tecnicamente, ha avuto anche un discreto successo negli anni 70. Infatti è finito diverse volte in classifica in America negli anni 70, e avevo scelto per voi non il lato A di questo 45 uscito nel 1972, che sarebbe Operator, ma ho scelto di farvi sentire il lato B, che è Rapid Roy, The Stock Car Boy, che secondo me è ancora meglio del lato A. Alle volte, riascoltandoli con 40 anni di distanza, alle volte ti rendi conto che i lati B hanno retto meglio il tempo. Perché secondo del lato me, A. Scusa, perché secondo me, visto che era comunque il 45 giri, un po' la musica di classifica, così sì, uno si ascoltava sì, solo il lato A. Il lato B ha retto meglio nel tempo, anche fisicamente, si è meno deteriorato perché è stato ascoltato meno. Questa è una mia teoria così estemporanea, data dal caldo un po' e dal pastis. Può darsi, però secondo me ha retto meglio l'impatto del tempo, quindi ascoltiamoci questa Rapid Roy di Jim Croce. Eccola. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, eat too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I say, baby. He got another one that just say, hey. Whatever Sunday afternoon, he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he the best driver in the land. He say that he learned to race a stock car by running shine out of Alabama. Oh, the demolition derby and the figure eight is easy money on the bank compared to running from the man in Oklahoma City with a 500-gallon tank. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he's too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I say, baby. He got another one that just say, hey. And Sunday afternoon he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet. About. He do 130 mile an hour, smiling at the camera with a toothpick in his mouth. He got a girl back home named Dixie Dawn, but he got honeys all along the way. And you oughta hear him screaming for the dirt track demon in a 57 Chevrolet. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he's too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I say, baby. He got another one that just say, hey. But every Sunday afternoon he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet. Questo era Jim Croce, molto anche quasi country, direi, dai. Sì, c'era un po' di tra il country, qualche riffettino proprio rock and roll, classico. Sì, era un po' un missone, però bellino, mi piaceva questa ballata con questo con questo tirettino di questo jingle jangle di chitarra e molto, mi piaceva molto rinfrescante. Sì dai, ci stava bene. Senti, ma abbiamo avvertito i rifornimenti, perché qui mi sembra che... Siamo un po' a secco, sì, ci scusiamo anche per questa... Volevamo fare una comunicazione di servizio. se qualcuno ci portava qualcosa da bere, perché qua in regia stiamo un po'... Tanto fa caldo! Tra le zanzare e la calura. Ma ora... Ora andiamo invece sul, diciamo, quei gruppi che hanno fatto da passaggio tra il beat inglese e la psichedelia. Esattamente. E sono i Free. E sono i Free. Di Paul Kossoff e di Paul Rogers. Il cantante Paul Rogers e il chitarrista Paul Kossoff. Erano le due colonne portanti dei Free, proprio gruppo di passaggio di passaggio tra il beat, appunto, e la psichedelia, però direi già più psichedelia improntata ai blues, se erano già abbastanza liberati. Oddio, in questo pezzo, che forse è uno dei loro pezzi più famosi, sicuramente quello che ha avuto maggior riscontro in classifica, questo è il loro singolo del 1969, l'avrete sentito un miliardo di volte, e infatti è All Right Now. E la riconoscerete appena la puntina entrerà nel primo solco, non ho dubbi di su questa canzone. La riconoscete, vero? Primo riff, subito. Wombat. All right now. avete riconosciuta, vero? Perché se non l'avete riconosciuta subito, dovete prendere e spengere istantaneamente la radio. No, ovvio. Vabbè, se non l'avete riconosciuta e non la conoscevate, ora non lo direte più e vi siete riappropriati di veramente un pezzo storico del rock degli anni 60. E qui però con i Free ci è piaciuto vincere facile, e adesso vi volevamo stupire con effetti speciali, ma invece vi mettiamo i Taste. E chi sono i Taste? I Taste non sono nient'altro che la band della fine degli anni 60, in cui militava un'autentica leggenda del rock irlandese come Rory Gallagher, che mi diceva qua il buon prog Radice Cubica di 15, che appunto in Irlanda ci sono direttamente le statue nei pub di Rory Gallagher. Sì, è un'icona proprio del rock, dello spirito irlandese. In tutti i pub si fa musica, c'è qualche effigie raffigurante Rory Gallagher. Ma perché gli tirano le finte dopo una certa ora? No, secondo me no. Oh. Anzi, quando dopo la settima pinta lo guardano e si mettono a piangere. A piangere, c'è proprio le lacrime. Sì, e finalmente è arrivato, sì, il nostro drink. Con evviva, potremmo andare avanti direttamente dall'Irlanda. Direttamente dall'Irlanda. McKenzie. Ti piacerebbe Lurina. È arrivata la nenia direttamente dall'Accademia della Brusca a portarci da bere, dall'Accademia della Brusca con la birra, certo. Quindi, perché qui insomma siamo una radio autogestita, autocostruita, autobevuta, facciamo di tutto. L'unica cosa, non suoniamo, ma vi facciamo sentire della musica. Però bellissima. Ce le facciamo e ce le cantiamo anche. Tutte. Non ci sentite cantare solo perché si butta giù i volumi dei microfoni, se no. Canti e balli. Soprattutto balli. Quindi, non abbiamo detto il titolo del disco, che si chiama Born in the wrong side of time, se non mi sbaglio, e questi sono i Taste di Rory Gallagher. Shake with fear as they watch his serpentine. I and you can smell their fear as they stand and curse the fact that they're alive. Siamo e questi erano i Taste con la voce di Rory Gallagher, un'icona del rock irlandese, assolutamente. E per una pura coincidenza sul lato B, anzi direi forse, sul lato A, che forse probabilmente sì, era il lato A, era, anche se era, sì, era il lato A, quello più consumato, poi scopriremo anche perché. Ci sono gli Who, ma con niente po' di meno che con una cover, però sei sicuro? Sì, sì, I'm Free è una cover sicuro. Non mi ricordo esattamente di chi era la prima versione. Se vedi sul centrino ci dovrebbe essere scritto l'autore. No, ma l'autore è lui, Pete Townshend. Ah sì, addirittura è loro? Sì, no, questa sì, no, è l'altra cover, quella famosa. Mi fai cadere in fallo così? Che ora non mi ricordo il nome, però c'è un'altra cover famosa di uno standard rock and roll. I'm Free penso l'abbia rifatto anche, che ne so, anche in maiale l'abbia rifatta. I'm sì, Free. non bene come gli Who, però. Infatti dopo ve la farò sentire in un'altra versione, se c'entrerà nella puntata, c'è una versione anche dei Chicago di I'm Free che dopo vi voglio proprio far sentire. Almeno ci sentiremo le due versioni diverse, vai. Ora sì. Sentiamoci. Se mi riesce di trovare il centro del disco, te la faccio sentire. Più o meno ci siamo. Sì, dai. E questi sono gli Who con I'm Free. Messiah's pointed to the door. No one had the guts to leave the temple. I'm free. I'm free. And freedom tastes of reality. Sì, avevi proprio ragione, era indiscutibilmente degli Who questa. Mi stavo confondendo con un'altra, mi sono sbagliato nel confondermi con l'altro brano canzone. Che non ci ricordiamo come si chiama. Ecco l'età alla memoria difetta, eh. Allora, andiamo avanti, qui su sempre su con le note di Radio Wombat. E siete sempre, ricordiamo che siete su Basement Records. Basement stasera. Records, ovvero i dischi ritrovati in cantina dal nostro DJ Dalai Dama. Però un sentito ringraziamento a Stefanone, se ci sta ascoltando, il grande DJ degli anni 60-70 di Radio One, una radio libera. Sì, un grande saluto, un grande ringraziamento, verranno trattati, lo sai, verranno riportati tutti sani e salvi a costo della vita, quello verrà assicurato, lo sai, cioè, i dischi sono pezzegore e quindi non si può avere il minimo dubbio su questa cosa, però ecco. Subito dopo scartabellando i dischi che avevo scelto, e qui si ricade proprio su un classicone, quando trovi un disco come questo non è che non puoi metterlo, uscito direttamente dalla penna del mitico Burt Bacharach e dato in dote alla voce superlativa di Aretha Franklin, questa è I say a little play for you. I'm coming my hand now. questa ovviamente era la grandissima Aretha Franklin. Penso un pezzo che non ha bisogno veramente di presentazioni. Anche qui dire che ci è piaciuto vincere facile è proprio un eufemismo. Però purtroppo era tra i dischi. Quando ti capitano in mano questi grandi successi in versione originale, come fai a non metterli su? Certo, poi noi avendo trovato anche dei dischi e dei gruppi sconosciuti, comunque almeno a noi sconosciuti, li abbiamo ascoltati tutti, abbiamo cercato anche di passare delle cose meno conosciute che comunque c'erano entrate infatti il prossimo disco, ecco, che ci sono entrati nel cuore. Non so se è un modo di dire che ho inventato ora, ma in questo caso proprio in tutti i sensi, perché il titolo del prossimo disco è Love Love Love Love Love. Allora il cuore qui è il cuore per forza, quindi. Però non pensate che sia un disco melenso, ve l'avevo detto, c'era tanto pop da classifica all'interno di queste buste. Magari ho voluto un attimo soprassedere, a parte i grandissimi successi che non potevi non mettere. Però passando al prossimo disco, questi sono secondo me veramente poco conosciuti, perché pensa un po', sono una band funky olandese, e loro sono i Night People, e questa Love Love Love Love Love era entrata in classifica, mi sembra, sia nella classifica americana sia nella classifica inglese, se non mi sbaglio, e questo quindi è un pezzo del 1970. La classifica inglese era, diciamo, il punto di riferimento di tutta l'Europa, praticamente. Sicuramente, no? a livello europeo, sicuramente i due programmi che faceva poi Stefanone alla radio erano appunto i programmi delle classifiche americane di Billboard, appunto, e la classifica inglese e la classifica italiana. Infatti, curiosità è che questo disco non è contenuto nella sua copertina originale, bensì è contenuto in questa copertina che a me fa un po' ridere, perché è il 19° Festival di Sanremo e il pezzo contenuto nella copertina originale si chiamava Le Belle Donne, cantato da Robertino. Il grande Robertino, direi. Cioè, che poi non so, il 19° Festival di Sanremo sarà roba sicuramente degli anni 60, però per dirvi, sicuramente anche solo a vedere dalla copertina sarà stato un pezzo che in confronto il Sanremo di oggi è quasi death metal, forse, a vedere da questa copertina di Robertino, sì. Perché doveva essere una cosa d'un melenzo legato al bel canto proprio, anche se non ho mai sentito il disco, però la copertina però possiamo, la prossima puntata, che vi ricordo che sarà martedì prossimo, dice tutto. Martedì prossimo riandremo in onda con Basement Records, sempre alle 9 la sera, un evento speciale per rinfrancare questa calura estiva e allietare almeno per un po' un aperitivo, una cena, sì, tra amici. Secondo me è musica che ci sta bene. Stasera abbiamo selezionato e anche abbiamo avuto la fortuna di trovare dei dischi che mi sembra possano andare bene per tantissime situazioni diverse. Sì, sì. Io ci abbinerei un vino bianco, guarda, con questa musica. Esattamente quale tipo bianco? Perché qui mi trovi preparato. Se proprio allora, quale vino bianco ci abbineresti? Ma dipende se siamo ancora in aperitivo, se stiamo già mangiando e cosa stiamo mangiando. Però secondo me un fare il sofistico. No, secondo me un Pinot Grigio dell'Alto Adige sta bene a tutte le ore e con tutta la musica. Bello marmato. Ghiaccio marmato. Però banda alle ciance. Sentiamoci un po' questi Night People con Love, Love, Love, Love direttamente dal 1970. Tanto amore qui su Radio Wombat. Su Radio Wombat. Questi erano i Night People con Love, Love, Love, pezzone. Bello, bello, grande. Questo non l'avevo mai sentito, no, mi era sfuggito. Guarda, prima di trovare questo disco non li avevo mai neanche sentiti nominare neanche io. Ecco. Però è stata una bella scoperta. È questo il bello, un po'. Sì, sì, cioè, no, di queste cose qui, di questi ritrovamenti, secondo me è questa la cosa bella, ritrovare cose che magari non avevi mai neanche sentito nominare, ti viene la curiosità, l'ascolti e ritrovi delle perle magari proprio disperse da 40 anni, ok? Cioè, non mi era mai capitato neanche di sentire nominare. Sì, ecco, poi magari vai a ascoltare un disco, c'è un pezzo valido e basta, però quel pezzo vale secondo me. Ma infatti questi sono tutti singoli, eh. Certo. Quindi siamo alla fine, e siamo ai saluti, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta. Pazientemente ascoltato in diretta, e tutti quelli che ascolteranno il podcast su wombat.noblogs.org, il nostro sito dove potete trovare tutte lo streaming in diretta, tutti i podcast vecchi, tutte le puntate da ottobre ad ora. Sì, no, c'è tutto. I dovuti saluti a Stefano, che è un grande ascoltatore di Radio Wombat, che ora in questo momento ci sta ascoltando, ha avuto la conferma. E vi lasciamo con il pezzo, diciamo, che ci ha lasciato più sorpresi e ci ha lasciato più freschezza, perché infatti, questo è come abbiamo iniziato. La sigla è sia la sigla di apertura che la sigla di chiusura. Quindi vi diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre alle ore 21, sempre ovviamente su Radio Wombat, con DJ Dalai Dama, yeah, e DJ Prog 75. Prog 75 fattoriale radice cubica che tende all'infinito, X, però tendente all'infinito. Bene, allora, buona serata, e rimanete sempre con Radio Wombat, ascoltateci, sosteneteci e risentitevi Lazy Per Sound con Psyche Rock, e salutate anche Fry e Bender mentre state ascoltando la sigla di apertura e di chiusura, mi raccomando. E a martedì prossimo. Arrivederci. Arrivederci. wombat. All we hear is radio wombat.